24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 6:35, ben svegliati e buona settimana a tutti. Inizia la nuova settimana di 24 mattino, stiamo in diretta fino alle 9, come di consueto, e siamo già pronti ad aprire il nostro bar, la nostra saracinesca, che si apre sempre. Ma come non risponde? Ha risposto, ha parlato. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ha parlato in realtà, Nicole Minetti ha parlato. Ieri è apparsa su Canale 5, l'avevamo detto che era la prima ospite di Alessio Vinci, gliel'abbiamo chiesto ad Alessio Vinci venerdì scorso e insomma è così, così è stato. È apparsa, vogliamo sentire la vera voce di Nicole Minetti in un'intervista, perché poi si vedono tante fotografie, tante pose, tante smorfie, ma... Nicole Minetti si dimette o no? Ieri fresca è apparsa in TV per la prima volta. Mario Nordano, segretario del PDL, la chiamasse direttamente e le dicesse al telefono: Nicole Minetti, per favore dimettiti. Se Angelino Alfano me lo chiedesse a me personalmente, sarebbe una cosa di cui si potrebbe parlare, certo. Parlare o risponderebbe sì? Io non voglio rispondere parlare a questa domanda. Perché temo già i titoli domani delle agenzie. Ecco, non voglio rispondere a questa domanda perché temo i titoli delle agenzie. Allora, siamo qui il lunedì, voglio salutare da dove, glielo chiedo, Edward Luttwak, buongiorno, ben ritrovato. No, non c'è, è caduta la linea. Vabbè, basta chiamarlo e i complotti. Edward Luttwak, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Dove la troviamo? Sempre a Washington. A Washington. Ah, guardi che è una domanda fresca per lei che riguarda le primarie del PD, perché qua ci sono già i complotti giudaico-massonici che si stanno sbizzarrendo sui soldi che favorirebbero la campagna per le primarie di Matteo Renzi. Voglio salutare anche il nostro Bimbo Alieno, buongiorno e ben ritrovato al lunedì. Il nostro sguardo, buongiorno a tutti. Il nostro sguardo sulla finanza. Edward Luttwak, allora, sa che c'è questa idea? Intanto Renzi le piace? Renzi. No, chiedo scusa, sì. Io sto seguendo la campagna qui fra sì. Obama e Romney. Sì. E no, mi dispiace, ma no, non so proprio niente di quello che sta succedendo nel mondo di PD. Non so... Conosco il signor Bersani personalmente, sì. Ma non conosco Renzi, non ho idea. E non so neanche se conosco Bersani politicamente. Ah, ecco. Ma Renzi, Renzi, visto che lei è attento... Per noi Bersani è stato una persona importante, perché il decreto Bersani conteneva quel decreto di anni fa di liberalizzare le professioni, quel decreto conteneva la formula per il disingessamento dell'economia italiana, che si pensava e si pensa ancora oggi di più che è la chiave di tutto, sì. Perché senza fare le cose, quelle cose là, anche se il debito viene azzerato, arriva qualcuno e ti paga 1970 miliardi di quello che è di debito, l'Italia continuerà a non poter crescere se non si cambiano queste cose. Sì, a essere ingessata. Ma sa quindi cosa... Bersani è stato l'unico politico che si è messo avanti, ha fatto la lista, l'ha presentata. Monti ha presentato più o meno la stessa lista per circa sì. 3 giorni e poi si è ritirato. No, ma quando lei dice a noi piace quel bene, a noi cosa vuol dire? A noi americani? A noi no, piace... dico in America, lui in America il signor Bersani... Sì. Non era quello delle liberalizzazioni. Altre cose, sì. È conosciuto per il decreto Bersani. Sì, quello delle liberalizzazioni. Che rappresentava, rappresenta e rappresenterà, perché non si può andare in giro, non si può chiacchierare intorno al problema di tutte queste cose super ingessate nel sistema italiano che non permettono agli italiani di lavorare e di crescere. Sì, ma infatti su questo, guardi, ci sono due titoli anche sui giornali che sono appena arrivati che riguardano proprio questo tema. Il primo è su Repubblica, Passera, che annuncia un patto per la produttività, cioè vuol fare un grande piano tra governo, aziende e sindacati per rivedere la concertazione, rilanciare dunque la crescita, la produttività. Il Sole 24 Ore invece titola: il fisco compra complicato, costa 5 miliardi, la burocrazia del fisco, 108 tra certificazioni necessarie. No, dunque, questo fa parte di un è solamente una frazione, di un groviglio di cose che sì. bloccano tutto. Io ho scoperto per caso, a causa di un amico, che per esempio la Regione Lazio, sì. naturalmente non soddisfatta dai migliaia di regole e regolamenti nazionali, aggiunge le sue. Una di queste è che un albergo che ha una stanza doppia deve avere un minimo, non mi ricordo se sì, 14 sì. metri quadrati, quadrati. Questa... 14,3 quello che è. Questa cioè, ce l'ha detta l'altra volta. Sì, sì. Sì, questa ce l'ha detta l'altra volta. Per meno soldi perché hanno un... regole arbitrarie di ogni direzione. No, però io Lutwak le devo chiedere questa cosa. Allora, la voce che si è sparsa all'interno del Partito Democratico degli anti-renziani è questa. Per esempio Ugo Sposetti, quello che teneva le casse dei DS, ha detto: ma da dove prende i soldi Bersani e Renzi? Da dove prende i soldi Renzi? E si è fatta l'accusa che dagli Stati Uniti... e da Israele, da Israele, perché Israele c'è sempre quando si deve parlare di questo tipo di complotti, c'è qualcuno che stia finanziando Matteo Renzi. Le pare credibile? E per quale ragione Israele dovrebbe finanziare non lo so. Un politico di un partito? Non lo so, glielo chiedo a lei, magari perché gli fa comodo. No, questo l'hai detto te, questa è l'idea della congiura, del complotto di una sì, cosa o un'altra. Sì. Spero bene che i politici in Italia, come tutti i paesi civili, devono dichiarare da dove prendono i soldi per le campagne elettorali. Sì, sì, beh, certo. Devono metterle online. Quindi che mistero ci può essere? Basta guardare online sul sito e vedere da dove tira fuori i soldi. Ma insomma, ma tutto, se non li mette su va in prigione. Ma tutto va bene per fare i complotti. Io vorrei Andrea Boda, insomma Andrea Boda adesso l'ho detta, è venuta così. Bimbo alieno. Bimbo alieno, ma intanto è un'identità che è abbastanza nota, no? Il nostro bimbo alieno. Allora, no, non so se ti voglio chiedere, ti vuoi esercitare su questa cosa giudaico-massonica, Pluto giudaico-massonica, sul complotto di dove sprenderebbe i soldi Matteo Renzi? Non penso che risponderei molto diversamente da quanto ha detto Lutwak poco fa. Però c'è invece questo tema lanciato da Passera oggi in un colloquio con Repubblica. E cioè ci vuole un patto per la produttività, rivedere la concertazione, tutte queste cose, rompere questi schemi incrostati dell'Italia, diciamolo francamente, di tavoli, di concertazione, tutto per rilanciare la produttività. A me verrebbe da dire, come ho scritto su Twitter, sì, auguri a Passera, auguri in Italia, auguri. Che cosa c'è in ballo in questo tipo di discorso? Ma che cosa c'è in ballo? C'è in ballo probabilmente le elezioni, nel senso che Passera mi sembra che si stia scaldando man mano che ci si avvicina alla scadenza, perché tutto sommato del governo tecnico mi pare l'unico elemento, o comunque quello con più ambizione di carriera politica anche di lungo termine, insomma, quindi direi che questi clamorosi annunci, diciamo così, sembrerebbero dei passi di avvicinamento ad una qualche forma di consenso. Cioè, si vuole candidare questo giusto? Sì, comunque secondo me ha decisamente l'ambizione di una carriera politica, non ha ancora ben chiarito in quale schieramento, ma questo credo che sia opportuno, perché toglierebbe incisività al governo attuale, perché il governo attuale è sostenuto da tutto il Parlamento sostanzialmente. Se i suoi ministri cominciassero a dire a dichiarare un'appartenenza, diciamo così, indebolirebbero la loro forza all'interno del Parlamento. Quindi... Però intanto un'altra cosa l'ha detta Passera e l'ha ribadita per quel che riguarda la pressione fiscale: cari italiani, mettetevi l'animo in pace, l'ha detto prima e dalla fine di questa legislatura non si può fare nulla. Ecco, è così, bimbo alieno, non si può fare nulla, rassegnatevi le tasse. La CGA di Mestre ha calcolato che con Monti sono arrivate 5,5 miliardi di tasse in più. Era davvero questa la via lacrime e sangue che dovevamo sopportare, che dobbiamo sopportare? Ma Gabriele, anche qui è stato molto chiaro, la settimana scorsa è stato detto che una crescita senza rigore è come una casa costruita sulla sabbia, quindi la visione molto chiara che ha chi amministra i conti pubblici è che bisogna innanzitutto ripristinare un sentiero di solidità dei conti e quindi ridurre la spesa e aumentare le entrate per lo Stato. Mm. Insomma, le tasse. C'è poco da fare. Uno vuol partire lunedì mattina a dire no, vi diamo una buona notizia, forse diminuiscono le tasse. L'ambizione più grande che possiamo avere è quella di, attraverso questa severità fiscale, trovare il modo di abbattere il debito, perché l'onere più grande che abbiamo nel nostro conto è l'interesse sul debito. È sempre quello. Man mano che riduciamo il montante di debito, avremo meno interessi da pagare, e quindi di conseguenza potremo liberare le energie di ridurre le imposte, magari incentivare alcuni settori, ridurre il cuneo fiscale. Però avete sentito, tutto declinato al futuro, faremo, ma prima è il debito pubblico. Questo ce l'abbiamo sul groppone, d'altronde non l'abbiamo fatto noi, ma i nostri padri, forse i nostri padri, i nostri padri. Lutwak, le voglio chiedere questo, lei dice togliere le ingessature, le incrostature, mi dica lei cosa farebbe, le prime tre cose che in maniera pragmatica dovrebbe fare se fosse il dittatore dell'Italia, forza, su, ce lo dica. Allora, visto che tutti sono d'accordo sul rigore, che vuol dire non aumentare la spesa pubblica, sì, perché non seguire la formula che stanno seguendo tutto in giro, cioè di licenziare costosi funzionari statali per poter assumere molte altre persone nel sistema? Cioè, se tu riduci la spesa pubblica e quindi riduci la pressione fiscale sulle aziende, le aziende possono impiegare persone. Ti do il funzionario statale è molto costoso. Ma ci sono i sindacati. I palafrenieri della regione Sicilia costavano 50.000 sì. euro, costano 50.000 euro all'anno. Ma ci sono i sindacati. Se tu li licenzi, i sindacati, e questi sono. Soldi ritornano via fiscale, l'imprenditore può assumere due giovani per 25.000 euro. L'unica maniera di ridurre la disoccupazione è di trasferire dalla spesa pubblica alla spesa imprenditoriale, quindi meno dipendenti statali, tagliando le tasse invece di aumentarle. Però Lutwak, cioè, coi sindacati questa forma di rigore è giusta, no, certo, che è un errore. Ma le chiedo, coi sindacati come la mette lei? Cioè, nel senso, capisce che subito in Italia ci sono i sindacati forti, allora, 15, 16 sigle. Ogni volta che i sindacati usano il loro potere legale con tutte le leggi in loro favore per schiacciare l'azienda, quello che stanno facendo è stanno riducendo l'impiego aziendale, chiudendo le aziende, facendole emigrare. Ora, se i sindacati non capiscono questo, cioè diciamo la FIOM, non so cos'è, hanno fatto un sciopero da qualche parte per vedere la partita, eccetera, ma non si possono licenziare perché sennò vanno in tribunale. Cioè, nella misura che i sindacati usano i poteri che hanno, loro stanno schiacciando gli imprenditori italiani, riducendoli le loro dimensioni, il loro impiego, e mandandoli via. Quello che i sindacati stanno facendo, la Fiat, per esempio, in genere, è di dire andatevene, fate automobili fuori dall'Italia. Sì, sì. Beh, ecco, allora, c'è chi ha una visione diversa, anche criticando Marchionne. I membri dei sindacati, essendo gente intelligente, dovrebbero loro controllare questo eccesso di potere. E io dico eccesso potere categoricamente, non perché l'operaio italiano sta benissimo, sta malissimo. No, sta malissimo, certo. Ma malissimo. Per colpa dei sindacati? È per colpa del fatto che la torta, una grande fetta di torta, deve essere data alle caste privilegiate, ai farmacisti, ai notai, ai tassisti, a tutte queste persone che il decreto Bersani voleva obbligare di competere. Sì, no, Bersani le piace, Bimbo Alieno, quindi siamo un paese di caste. Gli operai sono pagati malissimo. No, ma questo è chiaro, perché arrivano alle caste, Bimbo Alieno, così siamo un paese. Di che casta fai parte tu, Bimbo Alieno? Guarda. C'è da dire semmai un'altra cosa, però che quando l'azienda privata licenzia delle persone, queste persone diventano costo sociale, cioè lo Stato le sostiene in qualche modo. E quando lo Stato licenzia, che cosa succede a queste persone? Rimangono comunque nel bilancio pubblico di costo, perché, beh, ho capito perché, sì, come cosa, come welfare, come da certo, voglio dire, ho capito, ma con questa storia, per carità, io non è che voglio mandare a casa nessuno, ma con questa storia non si può licenziare nessuno, perché comunque costano sempre sul groppone dello Stato, magari costeranno meno, come welfare. Beh, d'accordo, però non dobbiamo immaginare che licenziare qualche dipendente pubblico prepensionandolo e quindi spostando il suo costo dal bilancio diretto al bilancio dell'INPS ci stravolga l'economia del paese, perché mi sembra... Ma non so se era prepensionandolo, forse la ricetta di Lutwak era un po' più dura comunque, cioè se uno ha 40 anni e non serve, non prepensionandolo, perde il posto di lavoro, no? Può succedere. Può succedere anche nel pubblico, no? No, bimbo alieno, no. Ma sì, penso che nel pubblico possa succedere soltanto per malversazioni gravi. Sì. Ma vabbè, ci sono motivi, ci sono in realtà motivi anche per licenziare, motivi economici. Io vorrei chiedere in chiusura, ma abbiamo 30 secondi, bimbo alieno, ma lo chiedo, così, ma Berlusconi, che è sempre silente, adesso meglio anche perché è mio, Berlusconi, secondo te, dove sarà? Che farà? Che penserà? Vabbè, diciamo che so dove vuoi arrivare. Comunque mi risulta che sia ancora in Russia, no? Sia in visita dal suo amico. Dal suo amico che sta facendo il compleanno. Sì? E niente, vabbè. Niente. È fallito, miseramente fallito questo tentativo. Voglio salutare Bimbo Alieno. Bimbo Alieno è un grande imitatore di Berlusconi. Ma è così, gli avevo servita su un piatto d'argento. Sembrava ieri il Milan. Cioè, sempre davanti alla porta, non segnano mai. E vabbè, allora andiamo in Serie B. Saluto Bimbo Alieno, saluto Edward Lutwak per essere stati con noi. Qui sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che già là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. La politica non deve essere per forza di persone che sono preparatissime, cioè la politica rappresenta tutte le categorie. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirina e la compagna di cielo ci ha dato mamma. Vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8:15 Giuseppe Civati del Partito Democratico, uno dei giovani, per parlare un po' di queste primarie che arrivano, sono state fissate le regole, oggi sui giornali c'è molto anche su questo tema. Alle 8:30 parleremo di un tema molto molto profondo, molto importante, che riguarda il fine vita, vale a dire l'eutanasia, perché c'è una nuova campagna shock che ha molto colpito, con uno spot anche, aveva colpito anche qui in rassegna stampa, se vi ricordate l'avevamo citato dai giornali, AAA cercasi malati terminali. Uno spot dell'associazione Luca Coscioni che ha rilanciato il tema su questo dibattito etico profondo di cui vorremmo discutere alle 8:30, l'eutanasia. So che già la parola mette paura, e invece ne parliamo. Più avanti però, ora i giornali in edicola. È lunedì 8 ottobre, intanto i titoli dei giornali, il Sole 24 Ore apre sul fisco. Il fisco complicato costa 5 miliardi. Questo è il titolo di apertura con un'inchiesta che vedremo. Il Corriere della Sera, Regioni, la fabbrica dei posti, quasi 400 società partecipate. Il Messaggero, Regioni e Sanità, nuovi tagli. Per Repubblica invece un colloquio col ministro dello sviluppo economico Passera, patto per la produttività, ecco il piano del governo. Il Giornale invece attacca il bluff dei professori, l'agenda Monti non esiste. Per La Stampa invece primarie PD, primi scontri. L'Unità continua sulla sua campagna per la Tobin Tax, l'Italia frena l'Unione Europea. Roma fasse con Madrid contro l'imposta sulle transazioni finanziarie, un'imposta invece richiesta a gran voce da qualche giorno dall'Unità. L'apertura invece del Quotidiano Nazionale, perché voglio partire da qui, è una vicenda che riguarda l'Emilia Romagna, un giallo. Il titolo è sopra la foto di un consigliere regionale, vale a dire Mandini dell'Italia dei Valori. Il titolo è I sacchi neri dell'IDV. Il giallo è questo, e da qui voglio partire perché oggi i giornali tornano a parlarne.

sono due ambiti che vanno chiariti, perché non ho capito il motivo per cui ci si dovrebbe registrare in un posto diverso dal voto, di cui ieri sera Bersani ha parlato anche a Che Tempo Che Fa. Secondo me bisogna registrarsi nello stesso posto dove si va a votare, e non ho capito come funziona il secondo turno, perché quelli che non hanno votato al primo non potrebbero votare. Ecco, queste due questioni sono ancora aperte. Secondo lei chi sono due turni, secondo lei chi non vota al primo turno dovrebbe poter votare almeno nel secondo, oppure no? Io non capisco perché, cioè o funziona come le elezioni, oppure insomma non è che possiamo sempre inventarci delle cose nostre strampalate. Se riusciamo a fare una cosa più lineare, più aperta, più responsabilizzante anche possibile, secondo me è la cosa migliore. Non evitare che le persone partecipino, allo stesso tempo cercare di limitare al massimo l'inquinamento e la partecipazione dei soggetti indesiderati. Cioè, perché lei teme questo. Oggi Franco Marini, dirigente lungo corso del Partito Democratico, ha detto viene fatto proprio per questo. Cioè, chi vota al primo turno, chi vota al secondo turno è chi ha già votato al primo turno. Altrimenti, mettiamo caso che Bersani e Renzi al primo turno siano vicini, temiamo che gente del centrodestra venga al secondo turno a votare Renzi per far cadere Bersani. Lei lo vede possibile, cioè degli infiltrati che votino alle primarie del PD? Sì, ma comunque si dovrebbero registrare, dovrebbero dichiarare pubblicamente di essere elettori di centro-sinistra, non so. E vabbè, non è una cosa gravissima, non è una cosa gravissima dire sono elettore di centro-sinistra, poi quando uno va a votare fa quello che vuole. Certo, però insomma, comparire in un elenco nel quale si dichiara una cosa, insomma, nella vita può anche essere responsabilizzante, non lo so, penso che sia giusto che se ne parli, se ne discuta ancora, però sabato non abbiamo definito questa questione, io sarei per essere più aperto possibile, sarebbe una scelta capita fino ad un certo punto da molti elettori, qualcuno potrebbe pensare che sia una norma contro quelli che non si chiamano Bersani, ecco tutto qui. Che cosa vuol dire Occupy Primarie? Lei è arrivato con dei cartonati, il cartonato di Bersani e di Renzi davanti all'Assemblea, cosa vuole fare? Ma in realtà questa campagna è partita tempo fa, noi abbiamo proposto 6 referendum al Partito Democratico, il sito è referendumpd.it, sono domande che facciamo non solo ai candidati ma agli elettori del PD e del centro-sinistra, perché insomma i referendum dovrebbero poter funzionare come le primarie stesse e richiamano l'attenzione su temi per me e per noi, per tutti quelli che erano promossi, molto rilevanti, a cominciare dalla riforma fiscale, dai diritti civili, come sa il PD ha una posizione molto complicata sulle unioni gay, sì. Da altre questioni come il reddito minimo, insomma tutti i temi che devono entrare nel dibattito delle primarie perché secondo noi potrebbero cambiare il futuro del paese. E che lei vede fuori dal dibattito, insomma, è per questo dice occupare primarie vuol dire parliamo di questo, cosa che non stiamo facendo? No, è anche un tentativo di dire non dividiamoci soltanto sulla leadership, sui gossip, e soprattutto la cosa che mi piace di meno sono i comitati di questo e di quello, ma parliamo di questioni politiche fondamentali, insomma gli ammortizzatori sociali li lasciamo così, oppure pensiamo a una formula che comprenda anche una generazione scoperta, i gay devono essere considerati diversi dagli altri in Italia dal punto di vista del riconoscimento dei diritti oppure no? La patrimoniale la facciamo per abbassare le tasse o come dice qualcuno non la facciamo proprio, non abbassiamo le tasse, insomma sono questioni che secondo me sono rilevanti. Questioni politiche che lei vede poco dibattute. Però le volevo chiedere questo: lei ha fatto un tratto di strada con Matteo Renzi, no? Eravate insieme alla Leopolda 2 anni fa, poi una settimana dopo la Leopolda lei ha detto di recente in un'intervista Renzi è andato ad Arcore a incontrare Berlusconi, io non ne sapevo nulla, insomma si è rotto un po' questo feeling. Lei che però l'ha visto da vicino, chi è Matteo Renzi? Me lo definisca in poche parole. Secondo me è un uomo molto talentuoso che fa benissimo a correre, ha nel coraggio e nel carisma le qualità migliori, ha costruito una fantastica macchina elettorale. Quello che ci divide, oltre alla visita ad Arcore, che è rimasta un po' una questione irrisolta, anche perché come vediamo è ancora di grande attualità, non ne parlano tutti, lei prima mi chiedeva di voti del PDL, eccetera, c'è secondo me un limite nella sua azione, è quello di non costruire una relazione politica vera con altri soggetti, insomma è molto popolare, è molto vicino al sentire comune, non è riuscito in questi anni a costruire intorno a sé una squadra politica completa, forte, credibile. Insomma, cioè un uomo che corre da solo, è un one man. Beh, un po' sì, non fa niente per nasconderlo, anche il suo format in giro per l'Italia è così, non ama molto il confronto sulle questioni spinose, non le ricordo che non c'è stato solo Arco, c'è stata anche quella presa di posizione assurda sulla vicenda Marchionne, in cui lui disse addirittura di essere con Marchionne senza se e senza ma, poi se i ma sono emersi, tanto che oggi lui dice di non essere più d'accordo con quello che Marchionne dice e fa. Per cui c'è un atteggiamento di questo tipo che secondo me è funzionale per alcune cose, per altre molto meno. Il tema del ricambio c'è, non lo rinnego, rinnego quell'esperienza che è stata bellissima, non rinnego un rapporto con lui che a cui terrò e a cui tengo ancora, insomma, dal punto di vista politico. Mi piacerebbe poter discutere delle questioni un po' più alla pari e con un po' di senso critico più forte, raffinato. Il verbo rottamare le piace? Ma guardi, era una provocazione utilissima che adesso usano tutti. Ieri Vendola diceva che bisognava rottamare Renzi, quell'altro, il segretario, dice che bisogna un po' rottamare anche noi. Insomma, mi pare che sia passata una questione che noi ponemmo in quella prima Leopolda, che era molto semplice: dopo tre mandati lo prevede lo statuto del PD, non si fa più il parlamentare. L'han cambiato lo statuto. Sabato le do una notizia, oggi Repubblica lo scrive: hanno cambiato questa parte dello statuto, non tre mandati, ma devono essere pieni: 5 anni. No, guarda, questo l'avevano già cambiato a luglio. C'è scritto oggi su Repubblica. Lo so, ma si sono sbagliati, perché il cambiamento l'avevano già fatto a luglio. In verità questo però la dice lunga sulla sensibilità che c'è, nel senso che il ricambio si sta imponendo in modo molto violento e forte con la candidatura di Renzi. Il PD l'ha sottovalutato troppo e adesso stanno tutti correndo ai ripari. Certo. Poi purtroppo sabato Bersani è stato molto aperto, molto meno lo è stata la Bindi e altri come Fioroni, insomma sono intervenuti i soliti, non ce la fanno, diciamo, a lasciare un po' di spazio anche in momenti come questo a figure della nuova generazione. Non ce la fanno. Matteo, da questo punto di vista fa molto bene, il problema è che il nuovo è molto più impegnativo del vecchio, cioè una volta mandati a casa tutti quanti che cosa ci mettiamo, e su questo il dibattito è aperto. Senta, le faccio una domanda al consigliere regionale, perché noi avevamo ai giorni scorsi a questi microfoni, proprio questo era Filippo Penati, che ha detto guardate che Civati non è che mi ha detto che mi devo dimettere oggi, mi devo dimettere se ci sarà rinvio a giudizio a gennaio, e Penati ha detto se ci sarà rinvio a giudizio non starà un secondo di più. Allora ce lo chiarisca, secondo lei Penati dovrebbe, perché poi sceglie lui, dovrebbe dimettersi ora, adesso, o se ci sarà un rinvio a giudizio? Guardi, secondo me il fatto è politico, prima lo fa sulla base di un ragionamento personale, ma che riguarda tutto il centrosinistra, meglio è chiaro che il passaggio fondamentale è quello che io indicavo e che Penati ha raccolto in qualche modo, cioè il rinvio a giudizio è la prima sede in qualche modo giudicante che si esprime nei suoi confronti. Per ora è una richiesta alla procura, insomma, dal punto di vista giudiziario questo ragionamento tiene, dal punto di vista politico sappiamo quanto è scivoloso. Cioè, è secondo lei dal punto di vista politico sarebbe meglio che si dimettesse oggi? Beh, dal punto di vista politico questa vicenda è evidentemente motivo di imbarazzo e di difficoltà per tutti, in Lombardia per Bersani, che lo scelse come numero due. Insomma, è una figura troppo impegnativa e ingombrante quella di Penati per banalizzarla. Gli ho proposto una soluzione, se davvero la raccoglierà sarà comunque un segnale, ecco. Cioè, così. Cioè non possiamo obbligarlo. La soluzione è al rinvio a giudizio, quindi a gennaio. Esatto, sì. A gennaio. Comunque una cosa a gennaio, forse prima, insomma i tempi dipendono anche dall'udienza, quando verrà convocata, eccetera. Però insomma ci siamo capiti, secondo me il segnale da dare in questo momento è che quello. Ha problemi giudiziari, faccia passi indietro, insomma questo è evidente. La ringrazio, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Giuseppe Civati, consigliere regionale del Partito Democratico, vedrà di sciogliere il dubbio nelle prossime ore se candidarsi oppure no, candidarsi alle primarie come aveva ipotizzato. Noi tra 5 minuti parliamo di un tema molto, se volete anche pesante, ma che riguarda tutti noi. Il tema è il fine vita, il tema è l'eutanasia, questa parola che per qualcuno già spaventa solo a pronunciarla, per altri invece è un tema di cui bisogna parlare. Lo facciamo perché c'è stata una campagna shock, anche con un video diffuso dall'associazione Luca Coscioni, associazione vicina ai radicali, che si batte per l'eutanasia legalizzata in Italia, un qualcosa che c'è in qualche paese, che in Italia assolutamente non c'è. Allora, vogliamo parlare del tema dei fine vita e lo vogliamo fare perché nei giorni scorsi l'associazione Luca Coscioni, che è vicina ai radicali, ha promosso uno spot che ora vi faremo anche ascoltare, uno spot molto forte, come deve essere uno spot che deve colpire l'attenzione, ma qui colpisce l'attenzione su un tema molto molto particolare, vale a dire quello dell'eutanasia legale che vorrebbero i radicali in Italia. Ne vogliamo parlare, intanto introduco gli ospiti, ne vogliamo parlare con Filippo Facci. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti. So che Filippo Facci ha detto presta, diciamo, la sua opera, insomma il suo lavoro per questa campagna, no? Assolutamente. È attivamente, diciamo, coinvolto in questa campagna. Saluto anche l'onorevole Paola Binetti, buongiorno, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. UDC, un tempo si diceva Teodem quando stava nel Partito Democratico. Ma questa era la precedente legislatura. Era, sì, certo, altra vita. Altri tempi. Allora, vogliamo sentire, lo possiamo mandare Paola Binetti questo spot o lei già, sì, sì. È già turbata dell'idea? No, già sono informata, ma mi sembra importante che lo sentano. Certo. Certo, allora sono 15 secondi, ascoltate bene questo spot dell'associazione Luca Coscioni. Ok, dai, siamo pronti. Giriamo. Eutanasia legale, scena prima, take 5. E azione. Ma dove sono i protagonisti? Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista. Fatevi vivi su eutanasialegale.it. Allora, il messaggio è molto molto forte. La turba, onorevole Binetti, questo spot? Certamente sì. Turba per tanti motivi. Il primo è l'obiettivo di fondo. In un contesto come quello nostro, in cui l'eutanasia è proibita per legge, l'idea di fare uno spot così esplicitamente, chiamiamolo pure illegale, mi turba molto. Mi turba poi sotto il punto di vista del linguaggio. Fatti vivo, me lo lasci dire con la stessa brutalità dello spot, fatti vivo per farti ammazzare. Mi sembra veramente, direi, di una, se mi posso utilizzare anche questa espressione, direi osceno, nel senso proprio veramente sgradevole del messaggio, strumentale, aspro, in un contesto in cui dico noi stiamo cercando di portare a termine il disegno di legge sul consenso informato, le dichiarazioni anticipate di trattamento, eccetera, e si levano voci che in qualche modo contestano questo diritto a portare a termine in una legislatura che si è concentrata molto sul diritto alla vita, sul diritto anche al rispetto per la situazione del malato terminale, assicurandogli cure palliative fino all'ultimo momento, davanti a un contesto in cui noi, come dire, facciamo fatica a presentare una cosa che è nella legge, nel rispetto della vita, nella qualità della relazione medico-paziente, all'interno di una rete di rapporti familiari forti e significativi, ancora una volta dai radicali viene una provocazione che, insisto, è durissima, ma soprattutto è illegale. Ma senta, loro ovviamente fanno questo spot perché vogliono far emergere un problema e portarlo a farlo diventare magari in un futuro legale, insomma è una campagna in questo senso. È chiaro che usa, questo è lo stile elettorale, certo. Perché è uno stile elettorale, non ce lo dimentichiamo, dei radicali. Lei lo vorrebbe mai, secondo lei, ad esempio, uno spot del genere sulla RAI, la RAI pubblica? No, io mi auguro che la RAI non lo mandi in onda, perché non può la RAI mandare in onda uno spot che è illegale. Le faccio un esempio piccolo. Noi stiamo discutendo in questo momento il famoso decreto Balduzzi, che parla di ludopatia a un certo punto, no? Sì. E a un certo punto io avevo proposto un emendamento che dicesse non parliamo di ludopatia, perché il termine è così, così morbido, così light, che non riesce appunto a colpire. E che termine voleva? Io volevo quello di gioco di azzardo patologico, una sigla dell'OMS, GAP. Sì, mi hanno detto sì. No, non si può utilizzare questa sigla, perché il gioco d'azzardo patologico, l'azzardo è contrario per legge. Quindi per farle un'idea dell'ipocrisia. Quindi insomma questo spot incita all'illegalità e dunque secondo lei per questo non dovrebbe. Mi faccio sentire. Non solo, Attenzione, sì. Non solo per questo, è che il contenuto no, beh, è chiaro. Legale. È chiaro, il contenuto è legale e inoltre anche il messaggio che manda, secondo lei, è un messaggio totalmente sbagliato. Filippo Facci, partiamo forse qui dalla cosa che è la cosa magari meno importante, ma lei lo vedrebbe bene in Rai uno spot del genere, Rai nel senso nel servizio pubblico, e poi parliamo di quello che lo spot dice. Sì, non vedo problemi perché la RAI è comunque una televisione e non è un comitato etico, bioetico, una succursale del Vaticano con i suoi ambasciatori come talvolta per alcuni personaggi sembrano essere in televisione o anche in radio. Poi, andiamo, vabbè, ovviamente riferisco. Poi vado avanti, poi invece... certo, allora si parla di illegalità quando, allora, l'illegalità a quanto pare ci sono persone che la vogliono mantenere, perché l'illegalità grave non è quella di mandare uno spot, ma è quella del fatto che l'eutanasia, a posto che bisognerebbe spiegare tutti i tipi di eutanasia che esistano, sì. L'eutanasia c'è già in Italia, c'è già. Il decesso di centinaia di migliaia di persone da noi è accompagnato da interventi non dichiarati dei medici. Ci sono decine di studi effettuati anche da cattolici basati sulla testimonianza di migliaia di medici anonimi e non, testimoniano che la sospensione delle cure, l'eutanasia insomma, sono praticati. La regola è la solita dei cattolici, si fa ma non si dice, lo si apprende di volta in volta, quando ci riguarda, quando ci tocca da vicino, la politica deve lasciar stare, alla fine si manovra. Cioè, la Commissione Affari Sociali respinse la proposta di fare un'indagine conoscitiva sul fenomeno, si fa ma non si dice, non si deve sapere, e quindi a dividere le coscienze, insomma, è chi pretende di spiegarci anche come dovremmo morire, ma alla fine è il vissuto personale a fare la differenza. Io non ho mai visto una persona al mondo, neanche una, che dopo certe esperienze personali non abbia fatto delle esperienze che appunto di fronte a una persona, a un familiare, agli sgoccioli con una malattia terminale, non abbia ammesso che sì, si può parlare di eutanasia, sì, o di testamento biologico in certe condizioni. Sì, come al solito dice il vissuto. Questa cosa mi faccia dire, sì, questa cosa, perché io veramente ormai non provo più rabbia quasi per niente su certi temi, ma di fronte a questi temi sì. Siccome questa cosa è capitata anche a me, e anche abbastanza di recente, perché esistono appunto tante forme di eutanasia, ma per esempio la più diffusa, che è quella in sostanza diffusa e praticata dallo Stato, quella di impiegare dei mezzi che allevino la sofferenza, non so, gli usi di morfine e, sì, di altre sostanze, sì, che come effetto secondario diminuiscono i tempi di vita. Questo è successo recentemente anche nella mia famiglia, quindi io e alcuni esponenti dello Stato abbiamo praticato l'eutanasia nel 2009, e l'onorevole o senatrice, non mi ricordo, Binetti, se vuole mi può denunciare, io sono qui. Ma questo non è Facci, non è la mancanza di il sospendere quello che viene definito accanimento terapeutico, che è un'altra cosa, però non è certo che questo accelera. Qualsiasi accelera cosa sia, perché guardi, se vuole facciamo tutte le distinzioni, spieghiamo come funziona in tutti i paesi occidentali l'eutanasia diretta, attiva, indiretta, passiva, volontaria, la non volontaria, il suicidio assistito, come funziona in Olanda, come funziona in Cina, ma qualsiasi cosa sia viene ridotta in Italia in queste discussioni a un grande bordello, è un grande casino, che le persone contrarie a tutto, dall'eutanasia giustamente tipo quella che praticano in Cina, sì, semplicemente ad altre cose che praticano in paesi più civili europei, per far sembrare praticamente una specie di stato nazista che ti vuole ammazzare, per usare l'espressione sentita prima, a suo piacimento. No, ma infatti, onorevole Binetti, risponda a questo. Il tema vero è quello della libertà. Guardi, Vittorio Feltri, forse l'ha letto anche lei ieri sul giornale, scriveva un lungo articolo parlando anche del suicidio assistito, dicendo anche questa frase: ma già si fatica a campare bene, si potrà almeno crepare decentemente come quando ci garba? Oppure l'alternativa è che a Mario Monicelli, lui raccontava per esempio e ricordava questo episodio, l'alternativa che gli si deve dare è quello di buttarsi dalla tromba delle scale a 95 anni. Magari ci fosse stata una via d'uscita un po' più dignitosa, non sarebbe stato meglio, onorevole Binetti? Guardi, a me sembra che noi stiamo mettendo insieme, come si dice, tanta carne al fuoco. Io contesto radicalmente i dati che le ha dato il giornalista. che migliaia e migliaia e migliaia di persone muoiono in Italia perché medici agendo contro legge staccano loro la spina simbolicamente, o come dice lui, insomma, iniziano a morire. Al di là dei dati, il fatto lo denunciò anche lo stesso professor Veronesi, l'eutanasia c'è, detto dal professor Veronesi. Contestare anche il professor Veronesi, non avrei nessun problema. Tanto per essere lui l'avrà chiaro. Detto per esperienza vissuta, voglio ma dire. Guardi, no? Noi stiamo confondendo delle cose abbastanza importanti. Allora, noi abbiamo anche un disegno di legge, quello sulle cure palliative, che a un certo punto prevede per il malato terminale, prevede effettivamente la sedazione e quindi anche l'accompagnamento alla morte sereno e tranquillo. Ma stiamo attenti che in quel caso noi abbiamo due condizioni che sono importanti da tenere in evidenza: il fatto che quello è già un malato terminale e il fatto che quella somministrazione di morfina non viene fatta per procurargli la morte, viene fatta per lenire il dolore. È molto diversa l'intenzione che c'è dietro, che cambia radicalmente il valore di un'azione. Quindi non credo affatto che gli ospedali italiani siano questa specie di mortificio a cui si riferisce Facci, anche perché se così fosse lui non dovrebbe fare queste campagne. Né credo che questo sia da attribuire a una sorta di, come ha detto lui, Stato Città del Vaticano che esercita la sua influenza. No, credo che questo attribuisca semplicemente alla sensibilità del medico la capacità di cogliere quali sono i bisogni del paziente e di dare. Sì, ma qui c'è sempre la sensibilità del medico. Aspetti, si fermi un attimo che devo dare il traffico. C'è sempre la sensibilità del medico, i bisogni del paziente, ma in realtà ci sono pazienti che chiedono, ci sono delle persone che chiedono liberamente di poter fare una scelta, come il suicidio assistito, come c'è in Svizzera, e non possono farlo. È questa una banalissima privazione di una libertà, perché la vita poi è a disposizione della persona che la vive, oppure no, perché la vita non è un qualcosa di disponibile per forza a tutti i livelli dalla persona che la sta vivendo. Faccia, le vorrei chiedere questo: quando abbiamo fatto altri dibattiti, il tema, mi sembra di capire, l'opposizione della Binetti o di persone che la pensano come lei è questo. Certo, la vita è difficilmente definibile, visto che ci sono mille sfaccettature diverse, ma questo sostantivo appartiene a chi la vive, tanto che uno se la può togliere. Il problema è che quando si vuole coinvolgere anche un medico o una persona terza, è qui il punto, perché dove deve finire la mia libertà di poter disporre della mia vita se devo coinvolgere in questa azione anche una persona diversa da me? Scusi se semplifico troppo, ma sotto traccia a tutti questi dibattiti c'è sempre un, come dire, due fronti. Uno di chi pensa che ciascuno sia proprietario della propria vita, e altri che pensano che invece no, la vita non appartenga al singolo. E poi nel mondo ci sono, vabbè, quelli che pensano che appartenga a Dio, oppure quelli che pensano che appartenga addirittura allo Stato o alla società. Alla fine il fatto che il medico debba porsi da tramite a una necessità tecnica umana, ma è anche la ragione che fa sì che appunto quello che devono fare, cercando di di mediare con la propria sensibilità, con gli strumenti a disposizione, caso per caso, è fare proprio quello che fanno, cioè fare le cose di nascosto, perché c'è troppa carne al fuoco. Non c'è moltissima carne al fuoco, e quale che sia, quello che spiegavo prima è che comunque questo fenomeno non si vuole sondare, perché l'UDC e altre forze cattoliche in Italia nel 2006 hanno impedito che ci fosse un'indagine conoscitiva sul fenomeno. Cioè, lei insiste sul fatto che c'è... Siccome poi io non tollero che la mia professionalità venga messa in dubbio, cito velocemente, come si può fare per radio, la rivista Lancet, sì, che penso la senatrice onorevole Binetti, mi chiedo scusa, non lo so, conosca, il Centro Bioetica di Università Cattolica di Milano. Posso citare molte fonti a sostegno dei dati che ho citato, che non sono leggende metropolitane da radicali militanti, insomma, che esiste. Alla fine, però, perché alla lei, fine lei punta l'accenno sempre l'accento sul fatto, prego, che siano forze cattoliche, cioè vede questa ritrosia delle forze cattoliche su questo? Beh, la vedo, cioè io sì, ma non è un discorso da mangiapreti, è purtroppo una sintesi sbrigativa che si deve fare per radio, cattoliche o meglio ideologiche, perché secondo me da questo punto di vista, in questo caso la religione si fa ideologia, che sono quelle che fanno sì che appunto da un certo punto di vista si decida che la vita non ti appartenga più, per, come con la legge disgraziata sul testamento biologico, secondo la quale da un certo punto in poi la tua vita sostanzialmente appartiene allo Stato, e infatti chi la viola e si pone a metà strada, come i medici, appunto incorrono in reati, insomma, in omicidio del consenziente, qualora appunto si limiti un medico, fatte le opportune valutazioni, a secondare la volontà di una persona che ha fatto tutte le scelte che lo riguardano possibili nella propria vita, ma non può scegliere come e quando morire o come soprattutto farlo, perché arrivano delle altre persone facendo delle leggi o stabilendo delle idee proprie vogliono influenzare la vita degli altri. Oppure può decidere se come morire, ma non in maniera dignitosa, come si suol dire, no? Se l'unica ma anche il livello di dignità è individuale, non si può prestabilirlo. Onorevole Binetti, mi risponda a questa domanda, risponda quindi anche a Facci: la vita mia, la vita di Facci, appartiene a noi stessi o no? Ne abbiamo la piena disponibilità, dunque, quando e come debba finire? Guardi, la risposta è molto semplice: la vita appartiene a me, ma non appartiene solo a me. In che senso? Quello che sta sottovalutando il giornalista, che sicuramente avrà una conoscenza di casi umani molto vasti, sta sottovalutando quella situazione di ansia forte in cui lui sta cercando di porre con questa campagna il malato terminale davanti alla sensazione non della sua libertà, ma del fatto di essere un peso per la propria famiglia. Ma perché? E quindi di conseguenza è come se gli dicessi: togliti dai piedi, perché tutto sommato sei un peso. Non può scaturire dal di dentro invece questa volontà ferma e forte di... Guardi, in America c'è un caso di una ragazza di 28 anni, i genitori si stanno opponendo a staccare la spina coreana, lei ha detto: no, io non credo di essere più in grado di condurre una vita dignitosa così, cioè addirittura è il contrario, è lei che chiede fermamente di porre fine alla propria vita. Il caso di una ragazza di 28 anni negli Stati Uniti, nel senso che può capitare, che una persona contestualizare questo caso, dovremmo capire. No, ma nel senso, in genere può capitare che una persona dal di dentro senta il desiderio di voler porre fine alla propria vita. Può capitare, ma sa quante migliaia di casi di pazienti cosiddetti terminali in un momento della vita di massima fragilità, davanti a una proposta shock di questo tipo, possono sentirsi, come dire, tentati a togliersi o a farsi togliere la vita per non essere di peso. Noi stiamo in un certo senso ipotizzando un mondo in cui il diritto a vivere è soltanto il diritto a vivere di chi sta ben in salute, di chi veda il caso dell'altro giorno della bambina Down, eccetera, eccetera. Noi stiamo ipotizzando l'idea che si può vivere solo se si è in perfetta forma e solo se la propria autonomia è consegnata alla capacità in qualche modo di disporre. Ma nessuno vuole forzare, lei dice che nel rischio... Prima il giornalista Facci diceva che ha vissuto sulla sua pelle recentemente un caso di questo genere. Chiunque ha avvicinato personalmente, direttamente, malati in stato di terminale, sa perfettamente quanto questa volontà è una volontà fragile, è una volontà fluttuante, quindi... una volontà che oggi chiede di morire e domani chiede di assistito, chiede di morire ma in realtà sta chiedendo aiuto. Questa è la realtà vera, questa volontà asettica da superuomo a freddo che dice io voglio morire e lo dice con una volontà ferma, determinata, è chiarissimo, questo è il suo pensiero, ma è interessante questo dibattito, magari visto che i tempi sono corti mi riprometto, se avete voglia, se vi fa piacere, Filippo Facci, onorevole Paolo Binetti, a tornare da noi. Intanto noi ci ritroviamo domani alle 6:30. Ok, dai, siamo pronti, giriamo. Eutanasia legale, scena prima, take 5. E azione. Ma dove sono i protagonisti?